24 mattino. Sono le 8 e 17 minuti. Ben ritrovati, cari ascoltatori, con 24 mattino. Ed è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Alessandro, buongiorno, non vorrei darti subito questa brutta notizia, ma dovresti alzarvi il volume delle cuffie. Non te l'ho chiesto in anticipo, stamattina facciamo in diretta. Aspetta. So che sembra una cosa assurda, però è lui che gestisce questo con è le sue mio. Maniere. Questo è il mio, è bello, è quasi essere un po' alla Casa niente. Bianca con beh, tutti. Perché in realtà sto usando questa cuffia di qua, mi devo alzare da sola. Eccoci ecco. qua. Benissimo. Eccoci qua. Sistemata questa cosa che ovviamente da Trento a Caltanissetta interessa a tutti. Ma noi vogliamo porci nei confronti dei nostri ascoltatori chiaro, dal punto di vista qualitativo cuffie, al meglio. Voglio sentire tutto quello che dici. Oggi parliamo di affitti con una che particolare riguarda, situazione. Esatto, una particolare fetta di popolazione. Tu come hai condotto la tua vita universitaria? Fortunatamente hai studiato essendo, a Milano e quindi non hai dovuto condividere spazi, andare in spese giro, andare in giro, e soprattutto le pulizie di casa, perché poi non è che si condividono solamente le spese, ma anche, come dire, oneri e basta. Allora, c'è da dire che la crisi economica degli ultimi due anni ha mediamente, complessivamente portato ad una diminuzione della richiesta di case di proprietà e dunque sono aumentate le richieste per le case in affitto. Questa situazione ha determinato l'inizio, come sappiamo bene, noi ne abbiamo parlato tante volte anche a Salvadanaio, del ciclo di ribasso dei prezzi delle abitazioni oggetto di compravendita, mentre tutt'altro andamento hanno i canoni di locazione. Questo porta con sé alcune conseguenze. Noi questa mattina ne parliamo perché questo è un periodo di scelte per molte famiglie che hanno permesso ai figli di iscriversi all'università, ma non tutte le città hanno l'università. Molte famiglie devono trasferire e devono aiutare il proprio figlio appunto a trasferirsi in un'altra città per iniziare il cammino universitario. È una scelta che costa non poco, perché oltre alle rette ovviamente ci si deve anche organizzare per poter permettere al figlio o alla figlia naturalmente di vivere in maniera serena. Buongiorno a Carlo Giordano, amministratore delegato del gruppo immobiliare.it. Buongiorno agli ascoltatori. Allora Giordano, perché abbiamo interpellato la vostra società, il vostro portale di annunci immobiliari, giusto? Corretto. Ecco. E noi gestiamo immobiliare.it, che è un sito che raccoglie offerte di vendita, di affitto e delle stanze, che ne parliamo adesso. 450.000 annunci nel settore. Allora, voi avete esplorato in primo luogo proprio il mondo universitario, perché questo, come dicevo prima, è il momento in cui si fanno le scelte. Magari la, come dire, famiglia che abita in un paese, in una provincia del sud Italia, deve in questo momento scegliere la destinazione del figlio, l'università che gli permetterà appunto di compiere il miglior percorso universitario possibile, ma naturalmente si tratta anche di trasferire questo ragazzo e scegliere anche il posto in cui questo abiterà. Allora, escludiamo a priori la possibilità di poter, a meno che non si abbia ovviamente un budget familiare molto interessante ed alto, di poter avere un appartamento tutto per sé, perché oggi proprio con i costi non ci siamo, e quindi la condivisione continua ad andare molto di moda, Giordano. Assolutamente sì, è corretto anche che proprio settembre è il mese di massimo picco. Noi rileviamo una crescita nelle richieste, quindi nelle ricerche sul sito e nella proposta di soluzioni in coabitazione, di oltre il 40% rispetto agli altri mesi dell'anno. Quindi è il momento in cui si cerca la soluzione in funzione dell'anno accademico. E allora, le città ovviamente con maggior frequenza universitaria le conosciamo. Quello che ci interessa capire è quanto costa anche una casa in condivisione in queste città. Facciamo gli esempi appunto delle maggiori città, poi ci spiegheremo anche perché siamo partiti dall'università, ma esploreremo anche il mondo del lavoro. A Roma e Milano, per esempio, che cosa avete rilevato? Quanto costa ad una famiglia la scelta di una stanza singola, immagino con un bagno in condivisione? Corretto, questa è la formula più tipica, il 60% dei casi è stanza con il mio letto, mio spazio e tutto il resto dell'appartamento in condivisione, quindi anche il bagno. E Milano è la città più costosa d'Italia, con mediamente poco più di 500 euro al mese. Da rilevare però che qua dentro sono comprese le spese di riscaldamento, tutte le spese generali dell'appartamento, quindi è proprio il costo finale dell'alloggio. Roma un po' meno, con 478 euro. E poi pian pianino si scende un po' più in basso. Qual è la città universitaria più economica, più conveniente, chiamiamola così? Beh, il sud Italia rimane strutturalmente come costo della vita più basso, quindi noi abbiamo rilevato Cosenza con 200 euro al mese, poi ogni città ha valori diversi. Più è forte il polo universitario, più viene sostenuta ovviamente la richiesta e quindi anche il valore dell'immobile. Allora città magari un po' più piccole come possono essere Siena e Bologna attengono valori alti da intorno a 400 euro al mese. Allora, se durante la vita universitaria la condivisione dell'appartamento è una situazione assolutamente normale, nota, fisiologica, tranquilla, diciamo che un po' meno comincia a diventarla la condivisione quando dal mondo universitario, quindi abbandoniamo il mondo della nostra costruzione, della nostra formazione professionale, e dobbiamo iniziare invece il percorso lavorativo, perché qua la vita goliardica universitaria praticamente non finisce in realtà. Che cosa avete rilevato? È verissimo, è stata la grande sorpresa della nostra analisi che nelle grandi città italiane, quindi facendo focus su Milano, Roma, Torino e Genova, e in solo due anni l'utilizzo della coabitazione, la scelta della coabitazione da maggioranza degli studenti, il 60% della coabitazione era fatta tra studenti, è andata a maggioranza tra lavoratori. Il 60% dei lavoratori oggi sono, il 60% della coabitazione è scelta dai lavoratori. È la dimostrazione di come il potere d'acquisto sempre più debole, l'aumento del canone di affitto, i salari, specialmente quelli primi d'ingresso nel mondo lavoro che rimangono bassi, alla fine obbligano a rimanere in una situazione di coabitazione. E infatti voi avete anche proprio, come dire, citato nella vostra indagine quello che è lo stipendio medio di un impiegato. Mediamente al primo impiego, se va bene, arriva a 1000 euro Giordano, ma insomma se va male prende anche meno, e chiaramente quindi la condivisione dell'appartamento è l'unica soluzione possibile per poter lavorare. Allora, un altro tema fondamentale è anche tutto ciò che attiene alla gestione del rapporto d'affitto tra il proprietario e l'affittuario, sia che si tratti di una persona che sceglie una camera in condivisione, una casa per condividerla per il percorso universitario, sia che si tratti di una persona che sceglie di condividere un appartamento per la vita lavorativa, e qua la prassi dei contratti, anzi dei non contratti, dell'affitto in nero continua ad essere ancora molto diffusa nel nostro paese. E questo purtroppo è un tasto dolente. In effetti il punto a monte è: ma perché un proprietario dovrebbe scegliere di trasferire, di offrire il suo immobile a più inquilini in condivisione? Ha solo aspetti negativi. L'aspetto positivo impressionante diventa che aumenta la redditività e tipicamente fa contratti a voce, in nero, e tra le parti, perché frammentando gli inquilini è più facile la sua gestione per lui. Ecco, magari questo permette anche a chi sceglie questo appartamento di poter risparmiare qualcosa. Il proprietario gli dice: se chiudi un occhio, no, ma lì è però non va bene. Dove uno risparmia o non risparmia, ammetto che penso che lo studente sia più in una situazione in cui da qualche parte deve stare, se quella è l'offerta. È vero anche che gli studenti tipicamente cercano la stanza in prossimità dell'università, quindi in zone abbastanza centrali che la rendono ancora più costosa, e quindi è una non scelta alla fine. Ecco, noi tra l'altro abbiamo parlato di quelli che sono i costi medi di un'abitazione condivisa, quindi di una stanza singola con ovviamente bagno e tutti gli altri servizi, la cucina in condivisione. Quanto si può risparmiare mediamente attraverso questa formula? Perché voi avete così individuato delle cifre anche su questo punto. Sì, noi abbiamo fatto il confronto sempre utilizzando la banca dati di Immobiliare IT e verso l'affitto di un monolocale in zone equivalenti, quindi se le zone erano vicino a Bocconi per Milano abbiamo cercato un monolocale vicino a Bocconi, e il risparmio è significativo, 300-320 euro di affitto, però una volta che tu affitti casa tua come monolocale hai anche spese accessorie che invece nella condivisione non vengono fuori, che invece sono già incluse nel canone. Certo, i canoni medi che avete rilevato, per esempio i 503 euro di Milano, i 478 sì. euro di Roma, i 422 euro in media per Firenze, sono appunto indicazioni medie, per cui è chiaro che abitando più vicino all'università i costi poi lievitano sensibilmente, immagino, quando si sceglie di abitare proprio nei pressi, diciamo, dell'Ateneo. Assolutamente sì, perché ovviamente dove il proprietario sa che ha maggior valore il suo immobile. Poi devo dire, i prezzi medi hanno grandi oscillazioni anche perché la qualità degli immobili cambia molto tra di loro. Ci sono appartamenti strutturalmente ormai da tanti anni offerti in coabitazione, quindi con arredamenti ormai utilizzati a lungo e da coinquilini temporanei, quindi con una cura relativamente bassa. Certo. Tipicamente il lavoratore che è molto più attento invece alla soluzione, quindi cerca case strutturalmente belle sia come immobile che come arredamento. E altra cosa che abbiamo rilevato, un lavoratore non vuole come coinquilino uno studente, probabilmente perché si sposta troppo della vita goliarda dello studente e gli cambiano la testa. Ci sembra ragionevole. Giordano, noi ci dobbiamo salutare. Ecco, magari un ultimo suggerimento prima di salutarci alle famiglie che in questo momento si stanno mettendo alla ricerca della stanza, perché non credo che si possa parlare di un appartamento, della stanza dove poter far stare il figlio che intraprende il percorso universitario. C'è ancora qualche mese di tempo prima che l'università inizi, quindi magari muoviamoci per tempo per trovare anche un'occasione che non costi poi troppo, che non pesi troppo sul bilancio delle famiglie. Assolutamente corretto. E come il lato positivo è che il mercato è proprio cresciuto, quindi sia nell'offerta sia nelle persone che sono interessate alla soluzione c'è molto più interesse. Questo lo rende molto più dinamico e più efficiente come mercato. Quindi benissimo, una ricerca può generare dei risparmi. Grazie, grazie a Carlo Giordano, amministratore delegato del gruppo immobiliare.it. Alessandro, ti ho rubato 50 secondi, volevo dare un ultimo suggerimento pratico ai nostri ascoltatori. Salva Danaio. Borse e mercati. Da lunedì ci sono delle novità di Pane e Sesto, Soldi e Dintorni rimane? Rimango. Alle 8.33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano sono queste. Morto a Napoli il 51enne di Secondigliano che era stato colpito dal virus dell'influenza A. È la prima persona a morire in Italia per le complicazioni seguite al contagio. Dino Boffo si è dimesso dalla direzione di Avvenire con una lettera inviata al cardinale Bagnasco. La mia vita e quella della mia famiglia, scrive Boffo, sono state violentate con una volontà dissacratoria che non immaginavo potesse esistere. Il governo ha messo a punto un piano salva precari nella scuola. La proposta prevede tra l'altro indennità di disoccupazione e accesso preferenziale alle supplenze brevi. Sarà discusso nel prossimo Consiglio dei Ministri. Per lo sport la Formula 1, dopo 17 anni un italiano torna alla Ferrari, è Giancarlo Fisichella che guiderà la rossa a partire dal Gran Premio di Monza. Infine una notizia di calcio, secondo il quotidiano Repubblica, Berlusconi starebbe pensando di vendere il Milan e ne avrebbe parlato, indovinate con chi? Con Gheddafi. Tutto questo alle 8.34 minuti. Come detto, parliamo di cittadinanza, cittadinanza per soprattutto i figli degli immigrati. Da un paio di giorni il presidente della Camera Fini, l'ha fatto ieri, punta molto su questo tema, dicendo sostanzialmente bisogna diminuire i tempi per concedere la cittadinanza ai figli degli immigrati. Lo ha fatto con un efficacissimo esempio un paio di giorni fa che vi vogliamo fare ascoltare. Qualche settimana fa la nazionale italiana juniores di cricket ha vinto i campionati europei. Maglia azzurra, tricolore, Fratelli d'Italia, ragazzini, erano juniores, che tra l'altro anche con un certo spirito, una certa sagacia, hanno dedicato questo trofeo continentale a chi diceva ma Fratelli d'Italia non è l'inno nazionale. Chi sono? Sono per 9 decimi figli di indiani, pakistani, uomini del Bangladesh. Sono nati qui, vanno nelle nostre scuole, probabilmente sono in classe con qualcuno dei vostri figli o dei vostri nipoti. Contemporaneamente, Sud America, sono giacenti presso le nostre ambasciate 800.000 domande di nipoti o pronipoti di emigrati italiani che chiedono di riacquisire la cittadinanza italiana, vogliono il passaporto italiano. Bene, si dà il caso che quelle 800.000, 700.000 domande, perché sono inevase? Perché non parlano una parola della nostra lingua, perché se gli chiedete se è più a nord Trieste o Palermo non lo sanno, perché se gli chiedete chi è Ciampi probabilmente pensano che sia un terzino di una squadra del nostro campionato. Io sento molto più italiano quel ragazzino col padre pakistano che orgogliosamente con il tricolore vince il campionato europeo di cricket, piuttosto che Edgardo Rossi, pronipote di un calabrese emigrato in Brasile 80 anni fa, che potrebbe diventare cittadino unicamente perché vuole il passaporto italiano per andare negli Stati Uniti. Sono cose di sinistra, amici miei, queste, o sono cose ragionevoli? Francesco Storace, buongiorno. Buongiorno. Lei è il segretario della destra, risponde lei a Fini, sono cose di sinistra o ragionevoli? Ma guardi, io ho conosciuto Fini per tantissimi anni, quindi sentirgli dire queste cose, mi chiedo perché ci hanno fatto passare in Parlamento una legge per dare il voto agli italiani all'estero, se le cose stanno così. Non ci credeva prima, non ci crede adesso. Tra i i cosiddetti italiani nuovi che lui scopre. Oggi sul Libero leggiamo che ce n'è uno di una ventina d'anni che a Borgo San Lorenzo, nato lì vicino Firenze, figlio di albanesi, albanese anche lui, ha preso a coltellate ammazzando un ragazzo italiano dopo essere uscito dal carcere da una violenza sessuale perché un giudice ha detto che era in fondo si era redento. Cioè, siccome ci sono alcuni che vincono una medaglia, quello diventa il tema dominante per fare una campagna propagandistica per mescolare. Per mescolare. Guardi che qui c'è il presidente della nazionale di cricket che l'ascolta. Sono contento per lui, sono contento per l'Italia, ma non è italiano, punto. Io questo voglio dire. Io credo che occorre sempre avere un senso delle cose che si dicono. Presidente Gambino, buongiorno. Simone Gambino, presidente della Federazione Cricket Italiana. Sono italiani i suoi ragazzini, i suoi nel senso della nazionale, questi quindicenni, sedicenni? Piaccia o no a Storace, a tutti quelli che ci ascoltano, prima o dopo lo diventeranno. La discussione non credo che sia sul fatto che siano italiani o lo saranno. Inevitabilmente, per quanto c'è una legge sulla cittadinanza attuale che è farraginosissima a livello di quinto mondo, dopo 10 anni di residenza si può chiedere la cittadinanza, quindi poi nell'arco di un certo periodo di tempo si diventa tutti italiani. Quindi il se non è neanche in discussione. Il punto che Fini solleva è il quando. Fini giustamente fa notare che appunto paesi civili come il nostro, come noi sosteniamo di essere, quindi parlo di Francia, Gran Bretagna, Germania, Belgio, cioè, tutti i paesi dell'Unione Europea danno la cittadinanza dopo 5 anni, riscontrati, sottolineo questo, i parametri richiesti, perché non è che quella cittadinanza si dà a cani e porci. Esiste un percorso ben preciso, verificato il quale, in cui il Ministero dell'Interno ha un ruolo fondamentale, oltre alla dichiarazione dei redditi che deve essere di una certa sostanza, si registrano i requisiti per diventare cittadino italiano. Questo sì, ma è vero che voi avete dedicato, lei ha dedicato anche, come ha detto Fini, insomma, alla vittoria. Ragazzi, ovviamente, sì, molti non è che conoscono, la dedica l'ho fatta io. Dopodiché, cioè la dedica l'ha fatta lei a chi? A Bossi proprio? Sì, l'ho fatta a Bossi, ma non è una dedica in senso cattivo, è una dedica per essere qui a discutere e a costruire. Su questo, infatti ci sono anche altri due... Posso fare un esempio rapidissimo? Sì. Perché Storace è mio coetaneo, oltre ad essere tutti due romanisti, seppur abbiamo idee diverse. 35 anni fa si combatté in Italia una feroce battaglia sul divorzio. Ci fu un referendum, il divorzio passò con 60% dei voti. Sì. Ecco. Oggi, 35 anni dopo, non c'è una persona che discute, neanche di quelli che votarono contro, la giustezza di quel provvedimento. Mi sembra una situazione molto simile. Secondo lei il presidente Fini vede avanti, insomma, vede in maniera lucida. È buon senso. Io son di sinistra. Ma qua, come dice Fini, non è una questione di destra e di sinistra, è una questione di buon senso. Ragionevole. Prima di presentare gli altri due ospiti, Storace, insomma, ma... Questo si chiama in una sola parola, relativismo. Io vorrei che fosse molto chiaro che l'immigrato che viene qui a lavorare o a primeggiare, per carità, nessuno si mette in testa di poterlo trattare in maniera incivile, perché oggettivamente accadono anche certi episodi, ma da qui a definirlo italiano io credo che ci voglia un bel tratto di strada. Fine è già arrivato al diritto di voto, cioè qui siamo di nuovo in un dibattito che prima di tutto è lontano dai problemi concreti del paese, e seconda questione, ma che c'entra con tutto questo la destra di governo? Vabbè che ci hanno abituato anche a prostrarsi a Gheddafi, quindi insomma il termine destra probabilmente non è più nel linguaggio dell'onorevole Fini, però oggettivamente a me pare proprio una fuga in avanti che è incommentabile. Lei lo vede molto cambiato da quando lei era il suo collaboratore? Beh, se fossi l'unico sarebbe un problema mio, credo che non ci sia un solo italiano che non dica la stessa cosa. Allora voglio salutare l'onorevole Fabio Granata, buongiorno. Del buongiorno. Popolo della Libertà, l'onorevole Massimo Bitonci della Lega Nord, buongiorno. Buongiorno, sindaco, buongiorno a tutti. Di Cittadella. Fabio Granata è l'onorevole che ha proposto, tra l'altro, una proposta bipartisan con anche la prima firma di Sarubbi del Partito Democratico, un progetto di legge che dunque verrà discusso a breve, che ricalca un po' la proposta di Fini, cioè abbreviamo, accorciamo i tempi da 10 a 5 anni, ma adesso ce la spiega lei, Granata, per acquisire la cittadinanza. E soprattutto passiamo magari da quello che è così cosiddetto lo ius sanguinis, cioè essere cittadini italiani perché c'è sangue nelle vene italiano, lo dico in maniera popolare, allo ius soli, cioè il diritto del territorio, perché si è nati qui, anche da figli, da genitori stranieri, perché si frequenta le scuole, perché si sa la lingua italiana, si tifa la squadra di calcio italiana, si va con gli italiani a scuola. Onorevole Granata. Sì, molto sinteticamente. Innanzitutto non si tratta ovviamente di una proposta che abbrevia a tu curri i tempi senza introdurre degli elementi di novità. Noi proponiamo di passare da un regime concessorio della cittadinanza, che oggi viene circoscritto temporalmente nei 10 anni, a 5 anni, ma con delle condizioni precise, cioè che colui il quale richiede di essere, dopo aver residente legalmente in Italia, dotato di un lavoro, dopo 5 anni, passando un esame sulla lingua italiana di conoscenza almeno a 2 secondo i canoni europei, dimostrando con un esame di conoscere la storia e l'identità culturale nazionale italiana, giurando sulla Costituzione come un atto simbolico e non formale burocratico, e soprattutto essendo esente da precedenti penali e quindi dimostrando, ecco, citiamo Sarkozy, di voler essere cittadino perché l'Italia chi la ama, può essere uno slogan molto poco di sinistra, voglio ricordare anche questo, può diventare cittadino italiano, così come noi riteniamo che un ragazzino che da genitori stranieri, non italiani, e che però nasce in Italia e che sostanzialmente frequenta un ciclo di studi in Italia e che cresce insieme ai suoi coetanei in Italia e che acquisisce non soltanto la lingua italiana, ma a volte sappiamo anche il dialetto, sia a tutti gli effetti da considerare cittadino italiano, perché non può crescere in una terra di nessuno. Cioè, noi crediamo al rigore, ma crediamo anche nella necessità di arrivare a una politica di integrazione, di cittadinanza appunto, dove i diritti e i doveri vengono contemperati e vengono offerti a questi nuovi italiani, che a tutti gli effetti sono nuovi italiani, anche perché, ecco, questo voglio ricordarlo a chi ci ascolta, c'è anche una grande tradizione italiana legata alla propria identità nazionale, un'identità dinamica. Io voglio parlare classicamente del civis romano susum, non sono dei principi inventati oggi. Probabilmente la grandezza dell'Italia è consistita, a partire dall'antichità classica, quindi ho citato Roma, ma passando dal Rinascimento, passando da quella meravigliosa esperienza che è la capacità di sintesi dell'identità italiana, proprio da questa capacità di far proprio i segni, i simboli, i percorsi in modo dinamico, quindi fini, qualcuno prima ha detto, Sorace credo, fini è cambiato sì. Perché è italiano, non c'è un'identità mummificata storicamente, c'è una capacità dinamica di interpretare i tempi, e oggi i tempi bisogna avere una capacità di lungimiranza per costruire un'Italia che sia all'altezza della propria storia. La lungimiranza, io su questo voglio passare a Bitonci, le chiedo prima un attimo di pazienza, devo dare il traffico, poi sono subito da lei, perché la Lega ha già detto no, per carità, non è nel nostro programma. Ieri Castelli, credo, della Lega, ha detto, a furia di andare sempre più a sinistra, Fini si riscoprirà più a sinistra di Bertinotti addirittura. Onorevole Massimo Bitonci, la Lega è contraria non solo perché credo non ci sia nel programma, ma anche contraria proprio all'idea che porta avanti Fini o la proposta di legge Granata. Le chiedo molto direttamente, vi imbarazza la posizione di Fini e di parte anche del PDL su questo? Beh, ci imbarazza, però sinceramente non ci stupisce, perché mi sembra che sia chiara la posizione di Fini negli ultimi mesi, da un anno a questa parte, con queste continue proposte a favore dell'immigrazione, della cittadinanza, i continui attacchi anche alle proposte della Lega Nord che volgono più a tutelare i nostri cittadini, come è ben chiaro. Io ribadisco il concetto che non fa parte assolutamente del programma elettorale, non era inserito all'interno del programma elettorale, siamo stati votati con un programma ben definito. Non so se gli italiani ci avrebbero votato se avessimo inserito tutte queste cose che porta avanti Fini, ma diciamo non è Fini che le porta avanti anche una parte molto chiara della PDL, insomma. Noi abbiamo un nostro testo di legge che è stato presentato all'onorevole Cota, di cui anch'io sono firmatario, che mantiene sempre a 10 anni il termine per la cittadinanza, e guarda più un processo di una perfetta integrazione con un esame che deve essere fatto, che tenga conto quindi non solamente una pratica burocratica, dopo 10 anni si ottiene facilmente la cittadinanza, però le chiedo, mi scusi, esame sulla lingua italiana, ecco, seguendo tradizioni, questo, storia, come succede in Gran Bretagna e voglio ricordare anche negli Stati Uniti d'America. Bitonci, le chiedo questo, seguendo questo filone, giusto, integrazione, quindi saper la lingua, saper la cultura, saper la storia, allora quell'Edgardo Rossi che ha citato Fini, che sta in Argentina da 70 anni e che ha sangue nelle vene italiane perché ha un vecchio prozio italiano, che però non sa niente della lingua, quello che facciamo, gliela togliamo la cittadinanza? Certo, guardi, oppure gliela lasciamo? Perché lei parla con un sindaco di un comune dove arrivano a decine le richieste ogni mese da parte di ex figli, esatto, di, perché lei è sindaco di Cittadella, e che fa? Chiedono il certificato magari di nascita dei propri nonni, dei propri bisnonni, quindi sono dei casi. Noi facciamo anche delle politiche di rientro e di integrazione dei nostri emigrati nei paesi latinoamericani, e il contatto con queste comunità è molto importante per noi, però parliamo, e lo dico al presidente della nazionale italiana di cricket, ecco, che non è la nazionale italiana di rugby, che è uno sport, o di calcio, che è uno sport in uso e, dalle nostre parti, soprattutto in Veneto, nel nord Italia. Il cricket è uno sport anglosassone, inglese, viene praticato da pochissime persone, ecco, invece parliamo di sport ben diversi. Vabbè, è uno sport minore, certo, questo è vero. Sì. Però sono tutti quanti, e io ho molti parenti, per esempio, in Argentina e anche in Brasile, sono tutti quanti nostri parenti, sono figli di nostri nonni che sono emigrati per lavorare, sì, ma quelli delinquere, no, ma voglio dire, ma neanche non facciamo, questo è un po' qualunquista, se mi permette, Bitonci, nel senso, stiamo parlando degli stranieri, figli degli stranieri che sono qui in maniera regolare, fanno le scuole, non di chi delinque. Perfetto, questo chiaramente. Ma allora che facciano il loro processo di integrazione? La Lega non è contraria all'integrazione, ma ci vogliono dei tempi certi. Secondo noi questa norma, questa legge del 92 va bene, che tiene 10 anni in più. Anzi, nella proposta di legge noi aggiungiamo qualcosa in più: noi vogliamo anche un esame di effettiva integrazione, quindi che... Ma su questo io voglio insistere. Storace, le chiedo, quell'Edgardo Rossi che non sa l'italiano, non sa l'inno e che dice Fini, se gli chiediamo chi è Ciampi, pensa che sia il terzino di una squadra di calcio, è italiano? Una frase: sono figli della nostra patria. Questo penso sia un punto che non è in discussione, e mi dispiace ascoltare una specie di mistica del cambiamento da parte dell'onorevole Granata, che rispetto, anche un buon rapporto, ma vorrei dire a Fabio, lui, se non sbaglio, uno di quegli esponenti della destra italiana che uscì dall'allora MSI, quando tornò alla segreteria proprio l'onorevole Fini, diciamo, sono cambiati in due da questo punto di vista. E proprio perché considerava Fini troppo di destra. Oggi le posizioni che vengono espresse da Fini non tengono affatto conto di una realtà che purtroppo è percepita male dai cittadini italiani. Su questo bisogna essere molto chiari. Lei ha interrotto prima Bitonci quando diceva delle cose che condivido, e ha detto: ma che c'entrano i delinquenti, in sostanza? Per dire che si parla delle parliamo delle persone che sono in regola, che sono per bene. Sulla propria pelle. Tra questi presunti patrioti, perché sono anche quei figli di gente che lavora qui, magari è nata qui, ci sono almeno 20.000 che affollano le carceri italiane. Vogliamo prima affrontare il problema che lo straniero che delinque in Italia se ne va a scontare la pena nel carcere del paese suo? Cioè, ci sono questioni che vengono molto prima di queste cose che, come ha ricordato l'esponente della Lega, non avevano nemmeno nel loro programma di governo. E ogni tanto si alza uno la mattina, ed è sempre lo stesso. Io non discuto il diritto a cambiare opinione, per carità, però vorrei che fosse mantenuto lo stesso diritto per chi l'opinione la cambia, ecco, questo vuol dire. Questo ci mancherebbe. Se no sembra che sia retrogradi. Ma no, che retrogradi, siamo qui a discutere ognuno con le proprie posizioni. Granata, questo cambiamento di Fini effettivamente è molto analizzato sui giornali. Io devo dire, ho letto con molta attenzione quando Filippo Facci qualche giorno fa ha scritto a dire: solo chi sbaglia, chi da destra dice Fini sta diventando diventando di sinistra, seguendo un po' quello che dice lei. In realtà sta diventando più moderno, più al passo coi tempi. E però questa conversione, qualcuno dice, di Fini e dei finiani, lei è un finiano, non la si può non notare, non la si può non guardare in dichiarazioni quotidiane. Ma guarda, io credo che ci sia da ricondurre il ragionamento su un piano completamente diverso. C'è una realtà che si evolve e c'è un mondo intero che ha messo in discussione alcuni criteri attraverso cui le vecchie ideologie veniva interpretato il mondo. Io credo che alcune delle cose che oggi nel mondo sono successe, da Obama alla stessa questione Sarkozy, sia piena di questo dato, cioè c'è un'identità che cambia nel mondo, problemi nuovi che le vecchie categorie della politica non riuscivano ad affrontare per il semplice fatto che non esistevano. Oggi ci troviamo ad affrontare un tema che è quello del giusto rigore verso la immigrazione irregolare, quindi la repressione del crimine. Però apro una parentesi e la chiudo subito: bisognerebbe togliere la cittadinanza a tutti gli italiani mafiosi o a tutti gli italiani che distruggono il paesaggio, a tutti gli italiani che non hanno nessuna considerazione della più grande stratificazione culturale del pianeta, che è l'Italia, perché non sono degni di essere cittadini. Quindi non è un problema etnico la delinquenza. Il problema della cittadinanza invece è l'accettazione di un insieme di valori, di identità, di percorsi e di culture in cui noi crediamo che non sia la base etnica discriminante, ma sia la volontà di essere italiani. Allora l'amico collega della Lega sostanzialmente ha detto, al di là dello ius soli su cui non è d'accordo, sul dato concessorio siamo d'accordissimo, è soltanto sui tempi che siamo su una posizione diversa, perché giustamente noi riteniamo che bisogna passare da una fase concessoria, i 10 anni viene concessa automaticamente, ovviamente con tutti i presupposti che deve avere il soggetto che la richiede, passare ai 5, ma attraverso una volontà che si esprime anche attraverso una serie di conoscenze dell'identità culturale, del percorso costituzionale, del giuramento sulla Costituzione, che serve a far percepire il nuovo italiano come tale. Allora io credo che questa visione non sia né di destra né di sinistra, sia una visione legata a una situazione che in Italia c'è già. Quello che dice Fini, quando, lei dice non è di destra ma è ragionevole. Quando noi chiediamo giustamente rigore verso l'immigrazione irregolare e anche sappiamo consapevolmente, realisticamente, che non possiamo accogliere tutte le aree purtroppo di disperati che esistono nel mondo, che non fuggono ovviamente per la volontà di fuggire ma per varie situazioni che ci sono, fermo restando che poi bisogna essere molto attenti a tutelare i diritti dei rifugiati politici, altre questioni molto complesse che adesso non c'è neanche il tempo per affrontare. Ma noi diciamo semplicemente che la cittadinanza non è un fatto etnico ma è legata alla volontà di essere italiano e di amare l'Italia. Questo è stato chiarissimo. Devo chiudere. Storace, me lo vuol fare un graffio di 10 secondi? Io ho letto una sua intervista al Corriere di recente a dire: ah, quando incontrerò Fini gli dovrò fare una domanda, una domanda personale. Ecco, siccome è personale, non va diffusa a mezzo stampa. Una sola cosa, se mi permette. Questa frasetta che si butta lì non è di destra ma è ragionevole, detta da un leader che è stato il capo della destra, cosa vuol dire? Che si era irragionevoli? Ecco, le cose cambiano, maturano, forse. Non si deve dire non è di destra ma è ragionevole, perché vuol dire stabilire un primato della ragione che non appartiene alla destra. Ecco, io su queste questioni vorrei che ci fosse un po' più di approfondimento, si sciacquano la bocca di cultura. In realtà commettono degli svarioni incredibili e vorrei che fossero un po' più rispettosi dell'identità che hanno detto di professare. Perché vedo, un leader può essere tale con le sue idee, restare leader con idee opposte a quelle che aveva, ho qualche dubbio sulla sincerità. Mi devo fermare ringraziando tutti gli ospiti, così come Laura Marchesi in redazione e Carmelo Lauricella in regia. Attenzione, da lunedì, sempre dalle 8.30 alle 9, quindi sempre in questo spazio, forse l'avete sentito anche un promo che gira, partirà Bianco o Nero? È il sondaggio di Radio 24. Ogni giorno vi faremo una domanda, un po' come abbiamo fatto oggi. Si potrà votare solo sul sito, il sito di radio24.it, del sito del sole24ore.com. voterete e poi vi diremo le percentuali, bianco o nero, da lunedì.